che fiducia avanzo, un passo dopo l'altro. Se la speranza è pesa un filo che sembra un cappio, incappo in un sacchetto della tua indifferenza. In fondo a questa strada hanno già perso la pazienza. I corsi di paura, ricorsi della storia, per trattenerci in una morsa senza memoria. Senza memoria. Mi muovo in imbarazzo nel caldo di dicembre. Si scioglie il mondo ma il tuo pollice non è verde. Ti piace la natura ma non sai dare aiuti. Ti va di fare un tuffo in mare ma poi ti rifiuti. Tra i tuoi rifiuti, tu ti rifiuti. Poi mi rifiuti, poi ci rifiuti. Bene.